cuore svelerà, nascosto in fondo all'animo il segreto troverai. Ci vuole la magia con un po' di fantasia, cantiamo tutti insieme all'inno alla felicità. Quando il pericolo si avvicinerà, arriverà la bambola che ti proteggerà. Super Dory Caccia, è magia o fantasia? Bambola da sogno che ti aiuterà, da un mondo incantato arriverà. Super Dory Caccia, è magia e fantasia, amica del tuo cuore sempre lei sarà, la sua mano ti darà. Destino di una bimba, principessa lei sarà. Ostacoli sul tuo cammino assai ne troverai, col magico bracciale sempre te la cagherai.